24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci, sono le 6:33 minuti. Buongiorno cari ascoltatori, siamo qui anche oggi in diretta fino alle 9. Come al solito c'è Miriam Lucchetti in redazione e c'è il nostro alpino Peter Biscapè in regia. Lì, eccolo lì l'alpino. Ovviamente il consiglio a tutti quanti è il consueto: but please relax. Relax. Alziamo questa saracinesca, dai, nel nostro bar, che così siamo pronti. Con lei. Il caffè volentieri a tutti quanti. Sempre Nicole Minetti offre il caffè, fatto da noi con la moca, come sempre, lentamente. Please relax, ci ha detto intanto il Premier Monti e noi ce la prendiamo con calma. Voglio salutare Paola Saluzzi, eccoci, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati. Bentrovata a te e voglio salutare un altro graditissimo ritorno, Vincino, buongiorno, direttore buongiorno. Del male, oggi con Paola Saluzzi. Allora, direttore, buongiorno. Allora, eccoci qua. Da cosa vogliamo partire? Da Obama? Ma le avete visto l'entusiasmo? Il meglio deve ancora venire. Sentiamo la frase in originale, no, di Obama. The best is yet to come. Sentite con che si, Vincino, ha sentito con che sicumera? Il meglio deve venire, eh? Un tono stupendo. Come in Italia, no? Sì. Il meglio deve venire ancora. Assolutamente. Come da noi, no? È così. Anche da noi deve venire il meglio, Vincino. Certamente. Perché dice finora come siamo combinati? Finora abbiamo scherzato, no? Le cose vere le vedremo nei prossimi mesi. Cioè che cosa vedremo? Ma che vedremo nei prossimi mesi, Vincino? Ma che ne so, dire, ieri pomeriggio il Senato è stato tutto il tempo a vedere se dedicare una festa, fare una legge per dedicare una festa all'inno di Mameli. Ah sì? Ah, e questo... se sentivate il Senato era stupendo, tutto questo Senato patriottardo che ha... meno la Lega che non voleva, e vabbè. Ma alla fine cosa hanno deciso? Ci sarà questa festa? Adesso... ho lasciato prima, devo dirti. Dopo tre ore di guardare la diretta ho lasciato prima. Mannaggia, ma le sedute del Senato sono lunghe, lì devono intervenire, controintervenire. Eravamo in due a seguirla questa diretta, io e Napolitano. ma insieme eravate oppure ognuno a casa sua. Siamo lontani però. Insomma, no, perché i giornali la pongono così: il meglio deve ancora venire. Questo è il messaggio che ha dato Obama. In realtà un po' esagerato. Io ieri, Paola, ti ho seguito a Sky TG24 pomeriggio. Anch'io ti ho seguito la mattina. Ci siamo cambiati favori, ma vabbè. Però anche i tuoi ospiti lo dicono chiaramente qui. Il meglio deve ancora venire, l'hanno detto. Questo Obama adesso c'ha la minoranza, nel senso che al congresso governano i repubblicani. Va bene, sì. Il messaggio, va bene la forza di dire il meglio deve ancora venire, ma qui tra debito pubblico, i casini, il lavoro che sì, non si dipende. È vero, però ci piacciono i combattenti, no? E voglio dire, sì. Forse lui in questo il meglio deve ancora venire ha preso in realtà una grande rincorsa per affrontare sicuramente la fase più difficile ancora dei quattro anni che sono appena trascorsi, però ha quattro anni davanti a sé dove, tra virgolette, elettoralmente non deve più dimostrare niente a nessuno, quindi ci aspettiamo molto coraggio e molta determinazione, e certo quel dire collaboreremo, se mai visto nessuno collaborare con un altro livello, questo è però... chiaro. Però, sai, da inguaribile ottimista e da obamiana convinta, ma mi ero vestita anche di azzurro democratico ieri, lo ammetto, lo dichiaro, sì. Paola Saluzzi obamiana. Ma perché? Perché questo endorsement? Cosa ti piace di Obama e cosa non ti piaceva di Romney? Perché è stato nuovo, perché forse Hillary Clinton sarebbe stata veramente la grandissima, vera novità a suo tempo, ma diamole tempo, la ragazza è in grado di prenderselo. Questo tempo perché uno secondo me in gamba e perché non ha atteggiamenti da guerra fondaio innanzitutto, e questo è un valore tra gli altri. Vincino... Perché è nero, Alessandro, è nero. Nero, e dopo il discorso di Martin Luther King, quella vabbè, ma questo anche lì 4 anni fa era una straordinaria novità. Adesso anche questo si è perso un po'. Lascia perdere la manica di razzisti che sta sempre in giro, è sempre una novità, è sempre uno schiaffone in faccia. Ci sta. Va bene. Oggi Vauro, il socio e direttore, insieme al nostro Vincino nel male, con la vignetta sul Fatto Quotidiano, gli americani hanno eletto il meno peggio, beati loro che ce l'hanno. Questo è, insomma, il concetto è questo, Vincino, cioè, se noi guardiamo l'America, il vero problema è che l'altro era mormone. Ora, avere un mormone alla Casa Bianca è una cosa, cioè, al di là del fatto tutte le camere da letto che ci vogliono, al di là di, come dire, tutti questi ragazzi con le camicie bianche e la cravattina che vanno in giro, che sembrano tutti grillini in giro per il mondo, è una cosa terribile. Abbiamo rischiato di avere un mormone alla Casa Bianca. Vabbè, ma lì ci sono tante stanze, alla Casa Bianca non c'è mica problema di piazzare 2 o 3 figli. Sai, le viti, poi le cose, no? Ma cos'è che, dire, si, cos'è che siamo si... un pericolo scampato. E poi ha vinto anche Marchionne, diciamo Obama ha vinto con gli operai della Chrysler con Marchionne. Questa è la triste cosa che bisogna dire, no? Anche se qua in Italia Marchionne non è molto popolare ultimamente. Quindi una cosa buona, una cosa nera. Cosa sembrano? Grillini sembrano quelli con la camicia bianca che vanno in giro. Sì, quelli là dei santi dell'ultimo giorno, sì. I mormoni. Non è che si potrebbe dire grillini, Cioè, in teoria... Come non si può dire? In teoria... Io ho fatto una vignetta ieri che tra 3 anni sarò arrestato per avere chiamato grillini. Sarà, ma io dirò grillini fino all'ultimo giorno. Ma io quali chiamo grillini, figurarsi, io chiamo Beppe Grillo, grillini, grillacci, come vogliono loro. Cioè, io mi ricordo scusate, direttore Alessandro, poveri, sono a questo punto una specie protetta, non possono andare nei talk show. Non possono fare questo, è un po' mormone. Mannaggia, voi non sapete adesso cosa mi scriveranno, diranno che li odiamo, che li odio, che io d'altronde chiamo solo Beppe Grillo Kim Jong Grill, niente di che, insomma. Oggi del giorno che ho visto cinese. Infatti, Vincino, che c'è? La vignetta che io e Mauro facciamo su Grillo, sì. Mezz'ora dopo cominciano a scriverci i grillini, no? Cioè sono di una reattività sul web pazzesca. Certo. Se non possiamo mettere una vignetta sua, e ce le dicono di tutti i colori, no? È così. Allora, vivono nella rete, per la rete. Sì, stanno là alle 4 di notte, a qualsiasi ora del giorno o della notte, si fa solitudine, non so come fanno. Basta però fare una vignetta su Grillo e track subito. E che scrivono? Che scrivono, Vincino? Che non abbiamo capito niente, che cos'è nuovo. La prima volta, il primo periodo sono delusi, no? Perché credevano tutte le cose che noi abbiamo fatto contro Monti, contro Berlusconi, contro questo, credevano che sia dalla loro parte, invece capiscono che non siamo dalla loro parte, ci rimangono male, no? Allora, ieri appunto da Paola Saluzzi il dibattito è scivolato via leggero, tranquillo, soave, come sempre. Paola, non è successo quello che è successo da Mentana, ma l'hai sentita la Luce Annunziata con Ferrara? Te la faccio risentire, perché Ferrara se la prendeva, che diceva Lucia Annunziata da false notizie dall'America. Sentite Lucia Annunziata. A meno di clamorose sorprese in alcuni degli stati che noi reputiamo sicuri. Chissà per Obama. L'ha annunziata forse su questo. Lucia Annunziata. Mi permetto intanto di dire a Giuliano che è un perfetto cretino. Ma perché? No, perché perfetto? Guarda, queste tue battute sono insopportabili, ma non me ne frega niente di un'amicizia fatta come questa, va bene? Ma come sarebbe a dire, ma te la prendi veramente? Ho dato finora, ma sì che me la prendo, perché il tuo problema è quello di aspettare soltanto che vinca Romney. Ma se vuoi sentire che cosa sta succedendo effettivamente in America, che devi fare i compiti a casa, quindi zitto e aspetta. Paola Saluzzi, questa è una donna con le palle. Beh, no? Ragazzi, voglio dire, stiamo parlando vado addosso ad una corazzata e non Potemkin, corazzata, quindi Devo dire che è stato un sipario interessante. Mi è piaciuto quel perfetto. Devo dire, quel perfetto studia a casa. Studia, fai i compiti a casa e stai zitto. Sei un cretino. Ragazzi, anche la donna che si è alzata in piedi ha preso Santoro e gli ha detto: sai che c'è di nuovo? Ciao. Me ne vado. E se n'è andata via, ma non me ne vado come di solito si va via, cioè me ne vado e lascio il peso del posto vuoto. Insomma, è una combattente. Sono cose che succedono. Ti è mai successo in diretta? Qualche volta qualcuno mi è successo che qualcuno si sia profondamente inalberato, anche di recente, e credo insomma che fossimo quasi insieme, ma sì. Sì, ogni tanto ci sono quelli che s'arrabbiano. Io tendo, perché quello è il ruolo, voglio dire, e tu lo sai perfettamente, Alessandro, a pacificare, insomma, va a pacificare Lucia Annunziata, Enrico Mentana e Giuliano Ferrari. Che vuoi pacificare lì? quando partono a darsene, basta. No, cioè, sono partiti, ma è anche, è stato un confronto bello. È stato bello vederli confrontarsi così, perché era tutto sincero. Non so, Vincino l'ha sentita l'Annunziata a Ferrara? L'ho sentito, ma difatti per un attimo si è staccata la linea, no? Sì. Perché è caduta completamente la linea, perché la parola... Giuliano dice che è una dichiarazione d'amore. Azzardato, però, come dire, si può prendere così. Allora, un modo elegante con cui commentare la cosa. Allora, sentiamo le informazioni sul traffico, poi vi devo far sentire. Ma io devo dire, il ministro Fornero, adesso i giornali se la prendono con il ministro Elsa Fornero, qualunque cosa dica, qualunque parola dica, siccome adesso è in sciopero con i giornalisti, non parla eccetera, appena va a un convegno dice una parola, la criticano. L'ultima ha detto che fare il contadino, lavorare la terra, dà gioia, dà serenità, a qualsiasi età, mantiene giovani, e subito ad attaccarla. Parlasse con i contadini che si spaccano la schiena, il ministro Elsa Fornero, vabbè. Io credo che la ministra Fornero abbia ragione. Il livello del giornalismo in questo paese è mediamente molto basso. A proposito di Ciusi, vi immaginate Caldoro? Alessandro, i politici dovrebbero darci un chiaro segno di serietà, dovrebbero semplicemente trascorrere almeno un anno a metà dello stipendio. Perché Renzi non si candida alle primarie del centrodestra? Sono Beppe da Sesto Fiorentino. Sai cos'è che toglie ogni speranza a questo paese? È che dobbiamo ancora parlare di fascisti, dobbiamo parlare ancora di Mussolini in Parlamento. E la colpa è di quegli stupidi americani che invece di buttare anche 3-4 bombe atomiche in Italia e in Germania, oltre che in Giappone, si sono limitati a un passaggio morbido. Dov'è il nostro Obama? In Italia chi abbiamo? Nessuno, tutti cialtroni! Vabbè. Tutti cialtroni, Vincino, vabbè. Ci dice nella nostra segreteria questo ascoltatore. Siamo con Vincino e con Paola Saluzzi. No, non siamo tutti cialtroni, Paola? No, perché... soprattutto quel signore che insomma auspicava una bomba atomica. Insomma, a cominciare da casa sua, insomma, date una calmata, si dice a Roma. Vincino, no, ha detto quei cretini. È stato un po' pesante direttore. Abbastanza, ma la nostra segreteria telefonica noi accogliamo tutto, c'è anche gente che è più pesante. Ma non siamo cialtroni, non è vero, non è vero. La mia credo si riferisse ha fatto una splendida intervista a Elsa Fornero giorni fa. Bella, liscia, dritta e corretta. Allora, ma Elsa Fornero, non ho capito, Vincino, che c'è? Ci sente? Sì, Vincino, eccoci qua. Noi siamo sempre qua. È arrivata la bomba atomica, no? Non lo so. Vabbè, adesso lo recuperiamo. Allora, sentiamo, volevo farlo sentire però anche a Vincino, ma adesso la recuperiamo, Elsa Fornero. No, ma Elsa Fornero è un ministro che, tra l'altro, di recente parla poco con i giornalisti, appunto, tu mi dici ha parlato, perché? Fa bene, fa male? Cioè perché... non è il fa bene, fa male, Alessandro, ovviamente tu inizi a diciamo così, una partita a tennis e dall'altra parte c'è la risposta e quindi... c'è a questo punto lo studio attento e talvolta accanito di ciascun singolo verbo, singola frase, singola parola, insomma, diciamo che non ha un ruolo né facile come, come ministero, e neanche facile come, come persona, quindi è chiaro che venga sottoposta alla massima, massima attenzione. Questi scioperi poi con i giornalisti portano bene, io la butto subito sul calcio, visto che parlo grande appassionato come te e come chi ci ascolta. Bearzot, mondiali dell'82, si andò in silenzio stampa e si vinse nel mondiale. Dici che c'entra questo col governo? Non lo so. Però tante volte porta bene. No, Vincino, ci risente? Eccoci qua. Allora, Vincino, ci siamo, sì. No, è caduta la linea, ma che deve, che succede? Cade, prende. Vabbè, no, allora invece... no, sentiamo allora, vabbè, Elsa Fornero che con i giornalisti non parla, pochi hanno, l'hanno avvicinata alla fine di un convegno e lei così, Diciamo che questo impone, quindi parlerò molto più lentamente perché dovrò ogni parola pensarla. Naturalmente farò degli errori, questo è indubbio, e quindi saranno gli errori a fare i titoli, non così. Io questo l'ho imparato. Vabbè, questo l'ha detto, no? Quindi quando ha tentato qualche giorno fa di dire andate via i giornalisti, sennò devo parlare lentamente. Poi ha parlato dell'orto. Ha parlato del lavorare la terra che dà gioia. Sentite che cosa ha detto ieri a un convegno. Io trovo le mie 2 ore di respiro sono quando io riesco ad andare nel prato, in fondo al prato ci abbiamo insieme a mia figlia un piccolo orto e coltiviamo qualcosa che non viene regolarmente mai, però è fonte di grande, grandissima soddisfazione personale, oserei dire di non solo di rilassamento ma anche proprio di gioia. Ecco, che cosa ha detto di male? Cosa io vorrei sapere, cosa ha detto di male? Ha detto che coltivare la terra con sua figlia, stare lì all'aria aperta, vedere i prodotti che non vengono, dà fonte di gioia e di serenità. Non so, Vincino ha detto qualcosa di male? L'hanno... No, Virgilio, come Virgilio, una di queste, una alcolica là. Ma che male c'è? Cioè, oggi sui giornali ha detto ai contadini di lavorare, figurarsi, si spaccano sul Libero, andasse a vedere come un contadino si spacca la schiena sul campo invece di dire che dà gioia coltivare la terra. Come la ma fa? Non escono neanche i pomodori, l'ha ammesso. Infatti, ha detto che quello che fa manco gli viene, insomma. E quindi questo è. Però ha dei pomodori chiusi, ha dei pomodori difficili che non sanno se uscire o non uscire. Sono chiusi. Sul chiusi di Vincino, chiusi. Però questa... sbaglia, forse cultura là. Dovrebbe, i pomodori vicino a Torino non vengono bene, dovrebbe piantare da un'altra parte i pomodori, però... E c'è da dire che effettivamente è così. Sentite, io dall'America ho colto una notizia che tutti i giornali in realtà parlano di questo, perché si è votato tanti referendum, questo per dire anche, e vi voglio porre questo quesito, siamo avanti o siamo indietro rispetto all'America? Hanno votato il referendum anche per le nozze gay in 2 stati e anche per la cannabis libera in 2 stati. Si potranno, sono il Colorado e Washington, si potranno acquistare 28 grammi di cannabis in punti vendita autorizzati e far crescere fino a 6 piantine nella propria abitazione. Vincino, siamo avanti noi, sono avanti loro? No, sono avanti loro, sono avanti assolutamente, loro. Guarda, come dire, in Sicilia verrebbero, guarda, piantagioni stupende, guarda, assolutamente. Anche in Calabria, no, tutto il sud, guarda, riconvertito alla canapa, ma d'altra parte nell'Ottocento c'erano tantissime coltivazioni di canapa nel sud. Ma è una droga però, È una droga. Ma no, aiuta i malati, quelli che aiuta anche quelli là un poco stanchi, aiuta i contadini, no, che si annoiano nei campi. E poi questa cosa dei matrimoni gay è stupenda, guarda, io e Mauro ci stiamo pensando, Però il problema che mi sono posto è questo: se uno è sposato con una donna, per sposarsi con un uomo deve divorziare o invece, siccome un altro genere, lo può fare tranquillamente? Cioè non è poligamia se fa una cosa mista? No, perché è un altro genere, per cui no. Questo è un problema, Paola Saluzzi, che non ci siamo mai posti. Siamo già passati alla cannabis, allora voglio dire, matrimoni gay, perfetto, diciamo che è stato un gesto importante alla quale l'America come sempre arriva prima o comunque anche la Francia anche la Francia l'ha fatto ieri assolutamente, comunque si è posta in una determinata, così si è allocata più avanti di noi. Sulla droga ci sarebbe troppo da dire, non faccio parte del partito degli entusiasti. E vedremo. No, neanche io, anche perché voglio dire, sei piantine, una cosa, però insomma, stiamo pur sempre parlando. Ma faremo questa droga. Domanda, permettimi, Alessandro. Sì. Lunedì abbiamo a Sky TG24 il confronto di tutti i candidati del centro-sinistra. Oggi invece di che parli? Lunedì sera è chiaro, e oggi invece tu di che parli? Ah, oggi restiamo ancora su America Obama. In una parte e poi ci tuffiamo nella politica, perché c'è politica di casa nostra, c'è tantissimo da dire. Dalle stiamo 3, cercando ovviamente. L'Obama nostrano. Sì, auguri. Grazie Paola Saluzzi e grazie a Vincino per essere stati con noi. For the United States of America, the best is yet to come. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. È giovedì 8 novembre, i titoli di apertura dei vari quotidiani, Il Sole 24 Ore, Obama presidente USA, borse giù. Così invece il Corriere della Sera, Obama vince, ora i vecchi problemi. Repubblica, la festa di Obama, il gelo delle borse. La Stampa, la nuova America di Obama. Per il secolo XIX il meglio dell'America, è la frase che ha detto Obama, no? Il meglio deve venire. Il Messaggero, Obama fa festa, gelo delle borse. Il Fatto Quotidiano, Obama esulta, i mercati no. Avvenire, Obama, un'altra chance. Per l'Unità invece, il trionfo di Obama, rialziamoci insieme. Pubblico, adottateci, e c'è la foto dell'abbraccio che ha fatto il giro del mondo, l'abbraccio tra Obama e la moglie Michelle. Yes, we cannabis, questo è il titolo del manifesto. Perché? Perché tra poco lo vedremo, ci sono stati anche dei voti sui referendum in America. Mentre non aprono su Obama, giornale Libero, Libero guida la detrazione per risparmiare 50.000 euro di tasse sulla casa, bastano piccoli interventi per dar diritto a sconti fiscali, mentre il giornale scandali in Emilia, la Guardia di Finanza nella sede del Partito Democratico. Questi titoli di apertura, come detto, ci sono tanti articoli su Obama, l'America, tra poco li vedremo, anche qualche commento, ma c'è stato un aspetto interessante sullo quale si concentrano vari quotidiani. Si è votato anche per tantissimi referendum nel giorno delle presidenziali, alcuni referendum in America che hanno colto l'attenzione dei mezzi di informazione. Dai referendum nasce l'altra America, così titola per esempio il Corriere della Sera a pagina 12, perché si è votato per esempio sulle unioni gay in Maryland e in Maine, che entrano nella storia come i primi stati americani ad aver inserito il matrimonio gay nella propria legislazione tramite referendum popolare. In altri 6 stati invece, il Connecticut, l'Iowa, il Massachusetts, New Hampshire, New York e Vermont, più il distretto di Columbia, che le consentono. Già le nozze tra persone dello stesso sesso erano infatti introdotte dai tribunali o dagli organi legislativi locali, ma Maryland e Maine hanno dato questa prima svolta. Come l'altro tema invece, quello della cannabis, Colorado e Washington diventano i primi 2 stati americani a legalizzare la marijuana. Nei 2 stati sarà consentito a tutti i cittadini che hanno più di 21 anni di acquistare fino a 28 grammi di cannabis nei punti vendita autorizzati e far crescere fino a 6 piantine nella propria abitazione. Resterà invece proibito fumare spinelli in pubblico. E lo stesso Corriere della Sera dice: una vittoria senza precedenti per il movimento antiproibizionista, che avrà probabilmente anche l'effetto di far scendere il prezzo dell'erba per i consumatori. Si tratta di un'aperta sfida alla legislazione federale, che considera invece la marijuana una droga illegale. Subito c'è stata la reazione del Dipartimento di Giustizia americano, che ha spiegato che l'applicazione delle leggi federali resta invariata, mentre gli elettori dell'Oregon, che sono stati chiamati a esprimersi sullo stesso tema, hanno detto no alla vendita libera della cannabis, e dunque l'Oregon invece ha votato no. C'è stato un altro referendum sul quale si è votato, vale a dire sulla pena di morte. In California c'era chi proponeva l'abolizione della pena di morte, ma il referendum è fallito perché con il 53% i cittadini della California hanno deciso di mantenere la pena di morte. C'era invece proposta l'alternativa abolire la pena capitale e sostituire tutti i condannati di pena capitale con quello che viene definito in America life without parole, cioè l'ergastolo senza alcuna possibilità di libertà condizionata, vale a dire un ergastolo effettivo, vero, cioè la vita in carcere. I cittadini della California hanno appunto bocciato e quindi rimane la pena di morte. Dal 78, quando è stata reintrodotta la pena di morte, sono state eseguite 13 condanne a morte in California. Su questo tema molti giornali tra l'altro mettono anche insieme la vicenda della Francia. Anche in Francia, proprio con una coincidenza temporale, ieri il presidente Hollande ha fatto una prima apertura matrimonio tra omosessuali. Il matrimonio è contratto da due persone di sesso diverso o dello stesso sesso. Questo è il principio, il primo passo nella legalizzazione delle nozze tra omosessuali, di un progetto di legge che va a ritoccare il codice civile in Francia. Ebbene, tutti i giornali si concentrano su questo, anche l'Unità, pagina 16, Francia, sì di Hollande alle nozze gay. E invece il Messaggero la prende dal punto di vista dell'America. Avanza l'America liberal, sì a marijuana e nozze gay, dai quesiti referendari una svolta sul terreno dei diritti. È duro invece Avvenire, che si concentra soprattutto su quello che succede in Francia. Il quotidiano della Conferenza Episcopale dei Vescovi scrive a pagina 21 nel titolo: Hollande vara l'omofamiglia, è un attacco al matrimonio, polemiche per la legge che stravolge la società. Così scrive Avvenire nell'articolo da Parigi di Daniele Zappalà. Anche il Fatto Quotidiano, pagina 4, i nuovi Stati Uniti, pena di morte no, marijuana e matrimoni gay sì. Cioè, pena di morte no vuol dire abolire la pena di morte, quindi pena di morte sì, rimane in California. Dal Maine alla California, un'ondata liberale nei referendum in Missouri e Indiana, sconfitti invece quelli del legittimo stupro, quelli che avevano detto questa frase orribile. Tra l'altro il Manifesto lo mette proprio in prima pagina, cioè titola con la foto di Obama Yes We Cannabis. E puntando proprio l'accento anche su per la prima volta passano i referendum sui matrimoni gay e sull'uso di marijuana a scopo ricreativo. Sono passati anche in due stati americani l'uso della cannabis, ma in questo caso a scopo terapeutico. Invece in due stati, appunto Colorado e Washington, è passata l'uso della cannabis a scopo meramente ricreativo. Obama, i gay, la marijuana è un plain liberal. Questo è il titolo del Manifesto a pagina 2 e 3 per salutare la vittoria di Barack Obama. Da Obama ripartiremo con commenti invece più legati all'economia, quello che aspetta ora al presidente americano. Chiudo solo, prima della pubblicità, con la chiosa che Giuliano Ferrara dedica alla vicenda dello screzio avuto con Lucia Annunziata. L'abbiamo sentito anche prima in audio con Lucia Annunziata che gli ha dato del cretino. Oggi sul Foglio ha un lettore che gli scrive le consuete lettere al direttore e che dice a Ferrara: ma l'Annunziata gli ha dato del cretino, e con che foga? Risponde Giuliano Ferrara: eravamo tanto screanzati in studio, maschietti impenitenti, annoiati e sarcastici, che avremmo meritato di peggio. La badessa mi ha dichiarato amore. La badessa ovviamente è Lucia Annunziata, secondo Giuliano Ferrara. Allora, Obama, l'America, il meglio deve venire, così ha detto nella frase chiave che vuol segnare i prossimi 4 anni alla Casa Bianca. In realtà, insomma, tutti i giornali raccontano che è un po' uno slogan che rischia di diventare anche un'utopia, perché Obama deve fronteggiare soprattutto dei gravi problemi, ora i problemi economici. Il primo, come racconta il secolo XIX, a pagina 3, è il cosiddetto fiscal cliff, vale a dire il burrone fiscale dove rischia di precipitare il paese se Casa Bianca e Congresso non troveranno entro la fine dell'anno un compromesso sulla riduzione del debito pubblico, che pare a 16 mila milioni di dollari. E visto che tra l'altro il Congresso è controllato dai repubblicani, non sarà facile come impresa. Dunque è chiaro che il secolo XIX lo mette a pagina 3 con un punto di domanda. Il meglio deve ancora venire? E a giudicare dai mercati, ma certo Obama a Wall Street non gliele aveva mandate a dire ultimamente, a giudicare dai mercati, i mercati hanno accolto con il gelo, questa è la parola che viene utilizzata più spesso nei titoli dei giornali di oggi, la rielezione di Barack Obama. Fitch e Moody's piegano Wall Street, così a pagina 5 del Sole 24 Ore Marco Valsania. Wall Street, dopo aver diretto buona parte dei contributi elettorali allo sconfitto Mitt Romney, non ha perso tempo a mostrare preoccupazione per la conferma di Barack Obama alla Casa Bianca. Ed ecco allora l'andamento della borsa che è in negativo, come tutte le borse, giù. Il deficit americano è da affrontare, il debito pubblico è da affrontare, a rischio è la AAA anche secondo Moody's e Fitch. Il coraggio di agire è l'editoriale di Luigi Zingales che trovate in prima pagina del Sole 24 Ore. E scrive Zingales: Obama ha vinto, ma il clima anche atmosferico della sua vittoria è molto diverso da quello di 4 anni fa. Nel 2008 la notte della vittoria era tiepida, con una luna piena che illuminava a giorno un Grand Park dove a celebrare non c'erano solo i democratici ma tutta l'America. Dopotutto in quella campagna elettorale Obama era andato ripetendo che in America non esistono stati repubblicani e stati democratici, ma solo gli Stati Uniti d'America. E l'America unita aveva celebrato l'alba di quella che sembrava una nuova era. Ieri invece a Chicago faceva freddo, pioveva, e le celebrazioni erano rinchiuse nella sede locale delle fiere aziendali. A partecipare c'erano solo i democratici, felici solo che non aveva vinto il loro nemico. Ebbene sì, scrive Zingales, ieri non ha vinto Obama, ma ha perso Romney. Un presidente che in 4 anni ha aumentato il debito del 50%, non è riuscito a far scendere la disoccupazione al di sotto del 7-8%. E non ha presentato un piano serio per ridurre l'esplosione futura delle spese sanitarie per gli anziani, era facilmente battibile. Romney non è stato in grado di farlo, nonostante gli americani abbiano rinnovato la loro fiducia ai candidati repubblicani che hanno mantenuto la maggioranza al Congresso. Dunque è stato sconfitto il Romney, tecnocratico, competente ma incapace di parlare al cuore degli americani. È stato sconfitto il Romney super tattico, bravissimo, forse troppo adattarsi agli umori degli elettori, ma incapace di generare fiducia. Così Zingales, dunque, a dire anche l'atmosfera non è quella di un successo, di una vittoria clamorosa di Obama, ma più di un avere arginato la possibilità di una sconfitta che per Zingales era abbastanza prevedibile, visti i risultati non certo positivi del primo mandato Obama. Lucio Caracciolo invece in prima pagina di Repubblica, il suo commento, il titolo: guerre imperiali. Barack Obama, scrive Caracciolo, è stato rieletto per salvare l'America da un'altra recessione, non per cambiare il mondo. E lui lo sa bene. In cima alla sua agenda 3 parole: jobs, jobs, jobs. Ma posti di lavoro e benessere sociale non sono funzione solo del ciclo e della politica economica, sempre di più dipendono dal modo in cui l'America sta al mondo, dalle relazioni politiche, commerciali, finanziarie col resto del pianeta, Cina in testa, che non accetta più il Washington Consensus, e non dimentica che la crisi in corso è nata a Wall Street. Questo Lucio Caracciolo nel suo commento che trovate in prima pagina di Repubblica. Tra l'altro c'è da dire che mi ha molto colpito come sul Corriere della Sera hanno fatto un articolo su lo staff di Barack Obama. Ebbene, lo staff di Barack Obama, tra gli altri, racchiude come numero uno, e c'è una foto che c'è sul Corriere della Sera, Jon Favreau. Chi è Jon Favreau? Beh, Jon Favreau è l'uomo che scrive i discorsi di Barack Obama. Sapete quanti anni ha Jon Favreau? 31. Ecco, questo è il nuovo che avanza, certo, dall'America. Jon Favreau, lo speechwriter di Barack Obama, ha 31 anni. Si verrebbe da dire, meditate, gente, meditate. E allora da Washington, invece, dall'altra parte del mondo, si guarda ovviamente con molta attenzione a quello che è successo alla Casa Bianca, a quello che sta succedendo alla Casa Bianca, a Pechino, dove proprio oggi si alza il sipario sui nuovi leader. Così leggo il titolo che trovate sul Sole 24 Ore, a pagina 15. Si apre oggi l'assemblea dagli esiti più incerti del previsto a causa degli scandali degli ultimi mesi. Questo è l'articolo di Francesco Sisci sul Sole, appunto, a pagina 15. E scrive Sisci: è una girandola di voci senza precedenti. Il 18° congresso del partito che dovrà decidere la dirigenza cinese per i prossimi 10 anni e che si apre a poche ore dall'elezione del presidente americano avrà poco di previsto, nonostante la puntigliosa, laboriosa preparazione durata anni. Le decine di versioni in giro a Pechino sulla composizione del prossimo comitato permanente del Politburo del partito, il vertice assoluto dell'immensa piramide politica cinese, è coperto dagli scandali, le ondate di scandali che hanno travolto, colpito dirigenti e leader del paese. Tutto ciò dimostra quanto questa transizione sia combattuta, quanto gli esiti alla fine possano essere incerti. Ci sono tanti scandali che hanno colpito leader di partito in Cina, primo tra tutti Bo Xilai, vale a dire l'ex capo del partito a Chongqing, deposto per una serie di crimini in relazione a un omicidio di un cittadino inglese. Che cosa si sa di certo di quello che succederà in Cina? Non sembra esserci quasi nulla, scrive Sisci, al di là della ridda di voci. Tra i pettegolezzi quasi tutti si dicono sicuri che il prossimo vertice del paese passerà da 9, vale a dire il numero attuale, a 7 membri, ma pochissimi sono disposti a mettere la mano sul fuoco anche su questo. Insomma, diciamo che in Cina si apre un congresso dalle tante incognite. Uno racconta quello che è successo in America, racconta quello che succede in Cina, poi viene in Italia e, cari ascoltatori, la politica, il dibattito politico, almeno a leggere i giornali, è francamente di una depressione devastante. Una depressione devastante perché si dibatte della legge elettorale. Allora, si dibatte sulla soglia messa oltre al 40%, al 42,5% per far scattare il premio di maggioranza con la legge elettorale. Ecco, che dire, dobbiamo aggiungere qualcosa? Ovviamente tutti i partiti si accapigliano su questo, i più arrabbiati sono quelli del PD che dicono così non c'è la governabilità. Tanto che racconta, pagina 18 del Corriere della Sera, Monica Guerzoni: Bersani teme giochini, i suoi insistono, un'intesa è possibile, un accordo si troverà, il primo a volerlo è proprio Casini, così dice per esempio Enrico Letta del Partito Democratico. Cioè, si cerca, dopo aver fissato questa soglia, il 42,5%, una soglia che nessun partito ovviamente raggiungerà, forse qualche coalizione, ma questo costringe alle coalizioni e potrebbe raggiungere, ma forse neanche. E allora l'accusa è questa: si è voluta mettere questa soglia molto alta per creare l'ingovernabilità e poi che cosa? Aprire a una possibile nuovo Monti, un Monti bis. Anche su Repubblica il tema politico del giorno è questo: legge elettorale, soglia al 40%, premio di maggioranza al 10%, così PD e UDC cercano l'accordo. Anche se c'è su questo il no di Berlusconi. Se siete appassionati di tema riforma elettorale, che per carità è molto importante, trovate oggi molti articoli. A me sinceramente l'argomento non appassiona per nulla, perché ci vorrebbe una legge elettorale fatta in 3 sedute e non nelle, credo, 80 o 90 ormai settimane definite tutte decisive che si sono succedute una dietro l'altra dall'inizio dell'anno e che non hanno portato a un bel nulla. Tra l'altro oggi su Libero, per quel che riguarda la politica, il sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo risponde a delle accuse che ieri sono state fatte da Libero dal titolo "Il governo svela, vogliamo impoverirvi. Ieri Libero titolava di un colloquio avuto a margine di una seduta alla Camera tra Polillo e il cronista, appunto, di Libero, Franco Bechis, che aveva attribuito queste parole al sottosegretario. Sostanzialmente gli italiani hanno un tenore di vita che non si possono permettere, non possiamo più permetterci questo tenore, dovremmo abbassare i consumi. Ecco allora che Libero aveva titolato così: il governo svela vogliamo impoverirvi. Come dire, secondo Libero, tutte queste tasse sono messe apposta per deprimere le entrate degli italiani, i bilanci familiari degli italiani, portare dunque a una sorta di riduzione dei consumi, perché questo viviamo al di sopra delle nostre possibilità, come ha detto il sottosegretario Polillo. Ebbene, oggi Polillo prende carta e penna, scrive al direttore di Libero: caro direttore, contrariamente a quanto contenuto nell'articolo di Bekis, noi non vogliamo impoverire alcuno. Come si evince dal colloquio, vogliamo al contrario aumentare salari e stipendi, al tempo stesso ridurre le imposte, ma tutto ciò sarà possibile solo aumentando la produttività, rimettendo in moto la macchina produttiva del paese. Se questo non avverrà, certo per colpa non di questo governo, sarà il condizionamento internazionale sotto forma di squilibrio della bilancia dei pagamenti a imporre nostro malgrado quell'impoverimento che tutti noi temiamo. Una lettera alla quale la risposta di tre righe di Libero è: prendiamo atto che il sottosegretario conferma il contenuto dell'articolo e noi da parte nostra confermiamo la sintesi del titolo, e cioè questa: il governo svela, vogliamo impoverirvi. D'altra parte, se la politica un po' vivacchia tra tensioni, c'è un Berlusconi che, secondo i giornali, soprattutto il giornale, dunque il giornale più vicino a lui, si è innamorato di Malindi in Kenya, tanto che è tornato per discutere delle primarie. Per la verità è stata una riunione di 4 ore molto tesa, raccontano i giornali, sia il Giornale sia il Corriere della Sera con Alfano, in cui Berlusconi avrebbe detto questo: io non metto un euro, quindi se volete farle, fatele voi, e come dire, non mi interessa niente di queste primarie. Questa ovviamente è una sintesi brutale giornalistica, tanto che il Corriere titola così: vertice sulle primarie, nel PDL liti e tanti dubbi. Repubblica è più esplicita, avrebbe detto Berlusconi: con le primarie suicidate il partito. Il Giornale però dice: sei innamorato di Malindi, tanto che è arrivato. Pare che abbia detto ad Alfano, addirittura abbia tentato a dire così: senti, ma perché non vieni qua tu giù a parlare di primarie? Vieni qua a Malindi, che è un posto bellissimo. Tra la battuta e la non battuta, poi Berlusconi in realtà è tornato a Roma, ha fatto questa riunione sulle primarie, ma dice il Giornale: sabato riparte e torna a Malindi. Se ne torna in Kenya, dove, racconta il Giornale, pare voglia comprare anche una casa. Il titolo del Giornale: primarie, il sì del Cavaliere, fate come vi pare, e poi riparte per il Kenya. E adesso Berlusconi cerca casa a Malindi. Nel centrosinistra invece si attende oggi per il Partito Democratico una sentenza importante, perché il presidente dell'Emilia-Romagna, Vasco Errani, nonché presidente di tutte le regioni italiane, oggi è atteso da un giudizio a rito abbreviato, con la quale il giudice Bruno Giangiacomo, dopo una notte di riflessione, un'intera giornata di riflessione di udienza ieri, metterà un punto fermo nel caso di una cooperativa agricola Ravennate, terre emerse all'epoca presieduta dal fratello di Errani, Giovanni, che è finita nei guai per una serie di presunte violazioni relative all'erogazione nel 2006 da parte della regione di un finanziamento di 1 milione di euro. La colpa di Errani, che deve rispondere di falso ideologico in atto pubblico, sarebbe quella di aver fornito, in una memoria difensiva inviata spontaneamente alla procura, una serie di elementi ritenuti fuorvianti, tali da far nascere il dubbio alla procura di avere tentato di coprire il fratello. La richiesta è 11 mesi di condanna. Oggi ci sarà la sentenza sul governatore per i fondi al fratello. Tra l'altro segnalo nel PD che c'è un Renzi che spera che Renzi perda. È Tiziano Renzi, il padre di Matteo Renzi, che in un'intervista al Fatto Quotidiano a Sara Frangini dice: spero che mio figlio perda le primarie. Giuro che è di sinistra, ma detto in tutta sincerità da padre, spero che perda. Matteo ha una famiglia, una moglie, dei figli, sta facendo una scelta difficile e radicale, le garantisco che per molti motivi, se perdesse le primarie, sarebbe meglio. Così parlò il padre di Matteo Renzi. Io credo devo chiudere tra 30 secondi, più o meno. sì, devo chiudere, ci sono i grillini, 5 stelle, eccetera, vabbè, insomma, tante notizie dai giornali, ma non c'è tempo per leggerle. Vi segnalo solo questa, dal Sole, dal Corriere della Sera, dal Sole a pagina 13, arriva il piano Balduzzi per tagliare 20.000 posti letto negli ospedali. Sul Corriere c'è anche tutta, sul Corriere, sul Sole, la piantina di dove verranno tagliati. I tagli record saranno in Molise, Lazio e Trentino. 20.000 posti letto d'ospedale da tagliare. Io vi ricordo che alle 8.30 avremo ospite il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta. Prima però vogliamo fare due chiacchiere con Daniela Santanchè, che saluto perché buongiorno, che abbiamo chiamato all'ultimo perché abbiamo trovato anche sul giornale qualche notizia riguardo a Berlusconi e le primarie. Ma allora, Berlusconi queste primarie le vuole o no? Pare che se ne voglia di andare in Kenya, Santanchè, e starci anche, trovare una casa, non si sa. Beh, questo speriamo di no. Ma le primarie abbiamo deciso ieri, dopo che c'è stato un lungo pranzo e poi una lunga riunione sulle regole, di fare queste primarie. Non abbiamo ancora deciso esattamente come, perché stamattina abbiamo un altro tavolo delle regole, poi abbiamo un ufficio di presidenza col presidente Berlusconi. Riunione tesa, dicono i giornali, molto tesa a tratti. Pare che Berlusconi abbia detto fatele come volete queste primarie, non gli interessano granché. Ma sa, io credo che a Berlusconi non penso che lo appassionino molto queste primarie. Lui è molto più teso a pensare alla gente, a pensare come si può appassionare la gente alla politica, come si può accorciare questo distacco che anche le regioni siciliane hanno evidenziato, no? Il 52% non è andato a votare. Io credo che il presidente è molto più volto a questo, di a capire come fare. Onestamente le primarie le faremo, perché il PDL va sicuramente innovato e quindi mi sembra lo strumento più democratico che esista, anche per partire non più con le nomine dall'alto, ma non le ama. Sì, ma che segno è quello che comunque quello che è il leader di un partito, non è più il leader come segretario, ma è il fondatore, che dice ma sì, insomma, però queste primarie fatele pure, però non è che ci creda più di tanto. Non è un bel segnale di fiducia, cioè gli elettori di centrodestra credono che vadano a votare con questo input un po' titubante. No, ma scusi, cioè, avete sempre detto, tutti i giornalisti del mondo dicevano che nel nostro movimento non c'era discussione, che c'era soltanto un capo, che tutti prendevamo ordini. Dice adesso che fanno le primarie e ci criticate. Invece, che abbiamo, voglio dire. Ma le fanno con senza entusiasmo, le fa come dire, vabbè, ma proprio se dobbiamo farle, vero. Facciamo. Lei parla con una che si presenta alle primarie, dove io ho assolutamente un grande entusiasmo, perché credo che deve essere una bella partecipazione. Mi interessa che sullo scalino più alto del podio vinca la gente, la partecipazione, c'è moltissimo entusiasmo. Poi, se lei mi chiede, si discute? Sì. A volte sono discussioni, tese, sì, è vero, ma io credo che sia bello, certo, grazie questo, a tu sì. Che non la pensiamo tua. È vero anche che Berlusconi dice, però io non metto un euro per queste primarie, non deve metterle lui, perché abbiamo un movimento, un partito, e quindi si faranno con i soldi del partito. Ci mancherebbe che i soldi li mettesse Berlusconi. E poi scusi, ma che senso ha? Cioè, vogliamo tutti essere grandi, autonomi, cioè grandi nel senso non di altezza, ma no, di età e di modi. Vogliamo andare avanti e poi cos'è? Si va dal papà a chiedere i soldi? Questo offenderebbe una persona come me. Questa storia del Kenya, ma cos'è? Un amore scoppiato, cioè va, torna in Kenya, ma pare che proprio voglia andarsene addirittura. Ma questo assolutamente no, che poi il Kenya sia un bel posto e che ci stia bene, e che il presidente, cioè che non è mai uno che ha fatto molte vacanze, come noto, abbia piacere e voglia, io credo che sia una cosa molto naturale. Io mi auguro che non ci ritorni adesso e che stia qua e che si occupi, come soltanto lui sa fare, del partito e della situazione che c'è. Sarei più contenta rimanesse qua, ma mi sembra anche giusto che un uomo che ha 76 anni possa scegliere quello che vuole fare. Quella, il dire di Alfano è il più bel fico del bigoncio, è un complimento oppure un modo un po' per insomma, è un fico, è un po' anche un modo per sminuirlo, per prenderlo un po' in giro? No, guardi, questo assolutamente no, tra il presidente e il segretario c'è un rapporto prima di tutto umano molto importante e sicuramente, voglio dire, l'ha detto per farle un complimento. Mi sembra molto brutto che si voglia così far pensare o far credere che il rapporto non sia umanamente importante e politicamente importante. Ricordiamoci che l'ha voluto il presidente come segretario e noi eravamo tutti d'accordo, e quindi il rapporto è quello e continua ad essere quello. Li ha visti i sondaggi del Popolo della Libertà? Pare doppiato dal Partito Democratico, così almeno nei sondaggi. Vi preoccupa questo? Beh sì, a me personalmente mi preoccupa moltissimo e vorrei che fossimo tutti rivolti a questo problema, che mi sembra il problema, perché vede, le elezioni siciliane, che non sono un sondaggio, ma sono, voglio dire, una rappresentazione plastica, no? Delle persone che vanno a votare. E che cosa ci ha dimostrato? Che i voti che noi avevamo ancora sono i nostri, sono del centro-destra. Il problema, vabbè, in Sicilia che eravamo divisi anche, e poi una parte che non va a votare. Quindi noi il mercato, cioè le quote di mercato elettorale in questo paese sono sempre rimaste le stesse. Il problema è che non abbiamo più il prodotto politico che appassiona le persone per farle tornare alle urne. Quindi di questo dovremmo parlare, su questo dovremmo impegnarci. Forse perché sono le stesse facce, gli stessi volti, gli stessi partiti, la gente non ne può più, sinceramente. Ma guardi, io credo che ci sia un problema principe, che è quello dell'appoggio al governo Monti, perché vede, noi siamo per Monti, si vota i provvedimenti di Monti un giorno. Il giorno dopo non siamo più con Monti, critichiamo Monti. Lei sta parlando con una persona, ad esempio, che è da sempre stata molto critica sul governo Monti. Io voglio dire, non abbiamo avuto nell'ultimo tempo una linea politica univoca, cioè un messaggio chiaro al nostro elettorato. Quando noi abbiamo i sondaggi che ci dicono che il 70% del nostro elettorato non vuole il governo Monti, è contro il governo Monti. Lei dice paghiamo questo. E noi paghiamo prima di tutto questo. Se non abbiamo il coraggio di dirci questo, di trovare delle scuse su altro, non siamo onesti. Questo è il vero problema, è la linea politica. Vogliamo questa Europa o riteniamo che questa è un'Europa che non è mai nata e quindi vogliamo gli Stati Uniti d'Europa? Vogliamo questo euro oppure diciamo questo euro non va bene perché una moneta deve essere sostenuta da una banca e la BCE non è la Fed che la può stampare, è indirizzata da un governo che non c'è? Cioè, dobbiamo avere forse l'idea un po' più chiara. Intanto io la ringrazio, buona giornata. Grazie, sei stata con noi, Daniela Santanchè del Popolo della Libertà. Allora voglio salutare e ringraziare di essere con noi il governatore in carica, nel senso in pectore, anzi quasi in carica della Sicilia, Rosario Crocetta. Buongiorno e benvenuto, presidente. Ecco, finalmente ecco. Presidente, governatore. Governatore. Non mi piace governatore. Governatore non le piace, presidente. No, ma tra l'altro non è previsto manco dallo statuto siciliano, dove esiste il presidente, esiste il Parlamento, esiste la Giunta. Presidente della Sicilia. Con noi c'è anche Emanuele Lauria di Repubblica, che saluto. Buongiorno Emanuele, benvenuto, eccoci qua. Buongiorno a voi. Allora, presidente Crocetta, lei ha le prese con la composizione della giunta. Le prime scelte sono Lucia Borsellino, che era stata confermata, e Franco Battiato. È stata una scelta coraggiosa, certamente. Non è stata una scelta un po' naif, presidente? Ma perché naif? Naif è qualcosa che è riconducibile, diciamo, all'esperienza dell'arte, così, che non ha che non ha perfezione, ma in questo caso ci troviamo di fronte a un intellettuale che non è che rappresenti una sorta di spontaneismo culturale, è un intellettuale persino organico, voglio dire, che ha una sua impostazione di vita, una sua impostazione di valori. Quindi... Però ha esordito dicendo con la politica non voglio avere nulla a che fare, ecco, questo, in questo un po' naif, sicuramente una scelta un po'... No, quanto la politica, bisogna intendersi cos'è la politica, cioè se la politica è stare dentro un partito, stare a contare le tessere, fare le guerre di corrente, non ci voglio avere a che fare neppure io, che in un partito ci sono pure iscritto, cioè voglio dire... La politica è quella con la P maiuscola e questa Franco Battiato come un vero intellettuale la fa, cioè voglio dire, non è che sta dentro un percorso, è chiaro che non è l'adesione a un partito, però mi pare che c'è l'adesione a un progetto culturale che di rilancio della Sicilia, c'è l'adesione a un quadro di risanamento della Sicilia, c'è l'adesione a un progetto contro la corruzione e per la lotta alla mafia, quindi altro che naif. Non è naif. Senta, altri nomi della giunta, ovviamente sono giorni importanti per la composizione della giunta, lei ha fatto dei contatti, altri nomi che ci può anticipare, qualcuno che vorrebbe nella sua giunta? Beh, sto lavorando, ormai siccome quando poi si dicono i nomi e magari uno ha altri impegni per altre ragioni, poi si finisce per dire ecco, non ha accettato, hanno voltato le spalle a Crocetta, eccetera, eccetera. Queste cattive interpretazioni poi mi inducono a essere un po' più prudente. Credo che io ho sempre detto che il profilo che voglio degli amministratori, degli assessori della giunta regionale deve essere questa nuova, cioè negli ultimi anni si è impostato un ragionamento di contrapposizione fra politici e tecnici. Quanto io rivalito la figura dell'intellettuale, come nel caso di Battiato, ma anche di Lucia, cioè, voglio dire, e sarà così anche nelle altre scelte, penso a una figura che un tempo era persino obbligatoria nella politica italiana, voglio dire, spesso i politici, Pasolini era un grande intellettuale e non si può dire che non si occupasse di politica, anche se non stava direttamente nella militanza partitica, eccetera, alcune fasi della sua vita. Ma lei non vuole politici in senso stretto, della vecchia politica, della vecchia concezione della politica? No, assolutamente. Io voglio intellettuali. Che poi siano politici o non lo siano, è un altro discorso. Chi va a fare un'azione di governo deve sapere esattamente dentro quali scelte sta, da quale parte sta, perché io non credo, guardi, nel tecnico neutro, così come non credo nel politico che possa fare un'azione politica se non ha il quadro delle competenze per poter fare le cose che deve fare. Comunque giunta di intellettuali, io preferisco dire voglio l'intellettuale, che non significa affatto che poi un intellettuale non deve stare. Berlinguer era anche intellettuale. No, ma su questo è chiarissimo. Presidente, vi faccio fare una domanda, Emanuele De Lauria, una domanda sulla questione della maggioranza, che è un po' il tema politico, questo cruciale per Crocetta. Lauria. Sì, infatti io ritengo positivi i primi passi che sta facendo il presidente, quindi non governatore Crocetta. Perché al di là delle formule così giornalistiche, insomma, si è passato dalla giunta dei tecnici alla giunta degli intellettuali, cioè, è indubbio che scelte come quelle di Battiato, scelte di alto profilo, al di là poi della operatività, insomma, di questa nomina, che certo sarà un po' complicata, però sono comunque giunte che danno alla Sicilia sicuramente, scelte da una Sicilia sicuramente un profilo molto molto molto alto e anche una visibilità, diciamo, internazionale e anche così un'immagine diversa da quella del passato. Il punto è quello del confronto con i partiti, perché Crocetta è stato eletto da una maggioranza, indubbiamente, dei siciliani, ma non ha una maggioranza in aula. Ecco, la prima domanda che chissà quante volte gli abbiamo chiesto, anche io gli ho posto tante volte a Crocetta, è e capire come farà a raggiungere quella quota 46 che in assemblea regionale è necessaria per poter governare. Il primo passo sarà l'elezione. Ecco, questo è il punto politico. Presidente, lei è una maggioranza che non ha, deve trovarla in aula. Come farà a trovarla? Io ai partiti temo, pongo la questione della rifondazione della politica, perché se io mi cominciassi a fare esattamente come si fa sempre, cerco uno di un partito, poi ne cerco un altro, poi cerco di fare l'accordo con un partito di quelli che hanno perso le elezioni anche globalmente, eccetera, io credo, non solo, è veramente ritengo che sia una cosa profondamente deleteria, cioè perché non favorisco il rinnovamento della politica. Qui c'è un quadro in cui Rosario Crocetta ha vinto. Rosario Crocetta ha vinto su una scelta ben precisa, che è quella della lotta alla mafia, la lotta allo spreco, la lotta alla corruzione, la solidarietà per i deboli. Questo è il quadro di riferimento politico. Su questo è possibile cominciare a fare con l'assemblea un patto per il risanamento senza macelleria sociale? È possibile fare un patto per il rigore che difenda i deboli e tagli i privilegi delle però un patto, Presidente, cosa vuol dire? Un patto cosa vuol dire? Vuol dire che al primo atto che lei farà, qualsiasi esso sia, avrà bisogno di voti, di una maggioranza in assemblea regionale. Gli atti con responsabilità, se questo metodo dovesse diventare il metodo della ingovernabilità, come qualcuno immagina, vuol dire che l'assemblea si prenderà, il Parlamento si prenderà la responsabilità di andare alle elezioni anticipate. Cioè io non intendo assolutamente. Cioè lei non cambierebbe nulla, potrebbe un programma, non ho posizioni personali da mantenere e io sono convinto che a quel punto i cittadini siciliani prenderanno atto che la politica siciliana e i partiti siciliani non sono in grado di prendere atto delle esigenze che ha la regione siciliana, che sono drammatiche, una regione che sta sul baratro, sul crollo, dove si dice nel 2014 sarà sicuramente può avvenire il default, o si prende o si governa con senso di responsabilità e tutti quanti oppure tutti a casa le nostre responsabilità, oppure si va a casa e i cittadini, io sono convinto che mi daranno a quel punto noi il 50%. Cioè, quindi lei dice lei è chiaro, non ho posizioni personali, questo è chiaro, Presidente, lei ha detto io sto sui miei punti fermi, lotta alla mafia, lotta agli sprechi e stare dalla parte delle fasce socialmente più deboli. Chi mi appoggia, bene, se no si va a votare, se non ho su questo certo, se non ho su questo l'adesione, se no che cosa stiamo parlando? Si può lasciare cadere, andare in nome di una maggioranza, si può rinunciare a questi valori, a questa esigenza che ci chiede oggi. Però io non credo che lei voglia rischiare così tanto, cioè, sembra quasi un giocatore di poker che dice vedo e ha una coppia. Sono un giocatore di cosa? Di roulette russa, altro che poker. Lei è un giocatore di roulette russa? No, sono uno che non ha privilegi personali da difendere, che non ha ambizioni personali da coltivare, che non si ha l'amore per la Sicilia. Dopodiché, o tutti quanti fanno, perché a me un governicchio non mi interessa. Mi interessa un grande governo. Su questo il Parlamento è pronto a dare il sostegno, perché mi pare che io stia dando dei segnali che sto mettendo persone di indubbia morale, di indubbia competenza, e su questo e su questo continuerò. Se il Parlamento, in nome delle logiche partitocratiche, in nome delle logiche di nicchia, in nome dei privilegi che bisogna mantenere a tutti, eccetera, pensa di dover continuare le logiche di sempre, cioè sì, di mantenere cade tutto. Esattamente, che ha distrutto la Sicilia, io non ci sto, perché dovrei fare il presidente, o come dicono, il governatore, sì, cosa che non mi piace tanto per niente. Cioè, voglio dire, dovrei fare il presidente di una regione che vivacchia, questo è chiaro, che inesorabilmente andrà verso la catastrofe. Ecco, no, a proposito di catastrofe, qual è lei il primo provvedimento che farà per arginare questo rischio default o crollo che lei dice? I provvedimenti non li voglio annunciare, perché i provvedimenti si fanno e non si annunciano, perché quando si annunciano poi spesso non si riescono a fare, perché i gruppi di potere si organizzano. Allora saranno provvedimenti di spending review, di revisione della spesa, che andranno a colpire privilegi. Me ne dica uno per esempio, cioè il privilegio che secondo lei è più insopportabile. Privilegi e sprechi, perché quando uno sta in un consiglio di amministrazione di una società che non è fantasma, che non esiste e che non fa nulla da anni, che cos'è quello? Veramente sarebbe molto più di un privilegio, sarebbe molto più di uno spreco, sarebbe persino un crimine, perché se si tiene qualcuno a stare lì a sprecare delle risorse pubbliche senza, per una società che magari è in liquidazione da 13 anni, io credo che qualcosa non funzioni in questo meccanismo. C'è un volere mantenere, non dico perché poi bisogna dimostrare il dolo in queste cose, a volte la disattenzione, l'incapacità e tutto quello che vogliamo. Però in questo c'è un modo di agire che sicuramente contro gli... E invece per quel che riguarda i costi della politica, lei ha già detto vuole ridurre, quanto sarebbe giusto secondo lei uno stipendio per un presidente come lei? Guardi, io sinceramente su questo mi pronuncerò nei prossimi giorni. Io come primo atto farò quello di autoridurmi lo stipendio, ho chiesto ai funzionari di dirmi quanto sarà il mio stipendio, non lo sa però me lo autoridurrò. A che cifra secondo lei? Non è competenza del presidente. No, questo sì, parlamentare sì. Aprirò il primo giorno, farò una richiesta all'assemblea, che ancora purtroppo si deve insediare comunque, la richiesta di fare un tavolo congiunto fra la giunta e il Parlamento per poter arrivare a una spending review. Una cosa che penso immediatamente, per esempio, mettere le auto blu in sharing, per esempio, no? Le auto blu in sharing. E sharing, certo, perché voglio dire, è ingiusto che uno debba, se deve andare per ragioni di servizio a fare un lavoro, credo che sia giusto che abbia, come tutte le aziende, Mi dica però, secondo lei, siccome ci dobbiamo fermare, siccome dobbiamo fermarci un minuto per il traffico, mi dica secondo lei quanto per il presidente è uno stipendio giusto, congruo rispetto alla responsabilità che ha e rispetto... Sinceramente no, glielo so dire, perché mi 5.000, è un problema che non so manco quanto guadagno. Io ho fatto il parlamentare europeo fino adesso. Vabbè, ma più o meno li avrà letti, saranno sui 15-16 mila euro. Mi piace molto il metodo che c'è in Parlamento europeo. In Parlamento europeo c'è uno stipendio che è intorno ai 6.500 euro che viene dato ai parlamentari, 6.150 credo, sì. Ecco, che viene dato ai parlamentari. Poi se questo stipendio alla fine dell'anno non si è raggiunto il 51% delle presenze in aula, viene addirittura azzerato. Questo mi sembra dei meccanismi. Ora noi dobbiamo fare uno studio comparativo fra quelle che sono le situazioni delle regioni italiane, quali sono le regioni europee. Però insomma, quando mi dicono che uno però deve guadagnare meno dell'usciere, non c'è più nessuno in Parlamento, a meno che non c'è, cioè, voglio dire, non venga considerato un posto di lavoro per disoccupati. No, questo cioè, certamente dire, no. Si fermi un attimo, devo dare le informazioni. Lo vede uno che lavora con 2.500 euro quando deve solo spendere il telefono probabilmente 1.000 euro al mese per tutti i contatti. Il parlamentare. L'attività parlamentare. No, per carità, 2.500 euro no, però magari neanche 18-19 mila come adesso. Emanuele Lauria di Repubblica. Emanuele, una domanda al Presidente. Sì, ero molto interessato a questo aspetto dei costi della politica, perché in Sicilia ormai si fa a gara a dire che ci si autoriduce lo stipendio. Insomma, l'hanno detto per prima i grillini, che dice che appena entrati all'ARS restituiranno una quota dello stipendio, quella superiore ai 5.000 euro lordi, quindi circa 2.500 euro netti, e poi l'hanno detto a turno diversi esponenti politici. Al di là di questo c'è un buco nelle casse della regione che certamente non si può colmare con la rinuncia, diciamo, con annunci di questo tipo, che comunque sono sicuramente positivi. Ecco, lì il problema è capire come si fa e se il presidente Crocetta ha in testa anche di affidarsi, per esempio, a un tecnico di valore per quanto riguarda la competenza dell'assessorato all'economia, che è un po' l'assessorato chiave, perché vanno bene le scelte degli intellettuali, però lì ci vuole un tecnico. Sicuramente, diciamo, che sappia mettere le mani, in un bilancio che, come lo stesso Crocetta ha detto, nel 2014 rischia il crollo. Ecco, presidente, parla di un professore di economia o di una professoressa, di una docente universitaria. Come si chiama? Che si chiama, se non sbaglio, D'Antone. Volevo una conferma. Presidente Crocetta, almeno per l'economia un tecnico ci vuole? Voglio scegliere un grande tecnico di fama nazionale, persino internazionale. Questo è il nome che ha fatto, il nome che ha fatto Lauria, è vero? Sto verificando diversi nomi, penso di averne in questo momento una triade a disposizione. Una triade? Questa parola, diciamo. No, vabbè, una triade. Una terna di nomi. Ma siciliani? Io, guardi, dico le cose quanto sono sicuro, non ho questa... a piccola abitudine, sì. Quanto sono sicuro dico no, però l'orientamento di l'ipotesi di Lauria è sicuramente l'ipotesi che è esattamente la mia, cioè pensare a una figura di prestigio nazionale e internazionale a cui affidare il ruolo diciamo se passino di custode del bilancio. Almeno no? Lì non un intellettuale, proprio un tecnico, sì, di profilo. Però voglio dire anche rispetto a una battuta guardi, non è sugli stipendi dei parlamentari, sì, che faremo rientrare la Sicilia. Questo no. Però un segnale. Il segnale ai cittadini, ecco, insomma, non si può. Un messaggio etico di abolizione dei privilegi. Questo sì. Senta. Perché quando si chiedono sacrifici ai cittadini è anche giusto che chi guadagna di più dia l'esempio, però senza demagogie, perché sennò altrimenti, voglio dire, non troveremo più un professionista, un docente universitario, anche un tecnico, un quadro di, voglio dire, che faccia di medie. Non stiamo parlando di ricchi che andranno più a lavorare. Presidente, io le devo chiedere... Lo stipendio deve essere... Sì. Dignitoso e riconoscere il ruolo, e non può, è un parlamentare sicuramente non può guadagnare meno dell'uscere del Parlamento. Le devo chiedere questo, presidente: lei sulla lotta alla mafia ha anche combattuto tanto, anche perché la vive come esperienza personale, ha detto più volte condannato a morte dalla mafia, ha una vita molto blindata, scortato, eccetera. Le faccio questa critica: non rischia di diventare troppo uno sbandierare questa lotta alla mafia, diventare insomma quello che Sciascia raccontava, il professionista dell'antimafia? Non avevo nessuna intenzione di sbandierarla se non mi avessero condannato a morte, cioè, voglio dire, non è che mica è cosa c'è da sbandierare, scusi. No, perché le spiego, voglio... per esempio Claudio Fava, come lei sa, ha preso malissimo il fatto che lei si sia paragonato a Giuseppe Fava, ucciso dalla mafia. Ma io non ho nessunissima intenzione né a lui né ai suoi parenti. Considero i suoi padre un grande modello, e citare il padre come modello, se può dare fastidio incoscio a Claudio Fava, ma che c'entra con la politica? Voglio dire, tutti noi consideriamo modello Fava, padre, consideriamo modello Libero Grassi, tutti quanti noi citiamo come modelli La Torre o Borsellino. Non mi pare che i genitori di Borsellino si offendano, cioè i figli di Borsellino si offendano se qualcuno dice mi piace come modello Borsellino, quindi perché uno automaticamente si considera Paolo Borsellino. No. C'è qualcosa di psicologico, non più di politico, nella pressione che Claudio Fava ha nei miei confronti. È incomprensibile persino, cioè continua a comportarsi come la campagna elettorale fosse ancora in atto. In campagna elettorale si è comportato come se fosse ancora candidato, mi pare troppo, sinceramente. Senta, una pressione personale è incomprensibile. Abbiamo un minuto, le devo chiedere questo sul lato personale, perché insomma ha fatto anche scalpore quello che lei dice, poi in realtà non l'ho detto in campagna elettorale, la promessa non farò più sesso se verrò eletto, e adesso ci siamo, insomma lei presidente è eletto. Intanto le chiedo che ne pensa di Vendola, che il compagno di Vendola che dice chiamatemi first gentleman. Lei ha un compagno? Perché ride? Ma guardi, mi viene da ridere. Ho capito nel perché. Nel senso che ognuno fa quello che gli pare nella sua vita. E certo, questo però sì. Io vorrei fare quello che mi pare. Questo sì. Però a questo punto fa dei modelli in cui bisogna avere, oltre la first lady, che sarebbe bene che rimanessero a casa. Perché per esempio io come modello ho Pertini, la cui moglie non partecipava mai a un'iniziativa, se ne andava in giro. Ah, cioè le vorrebbe a casa fare la calzetta magari? No, ma quale calzetta? Non mi faccia dire delle cose che non voglio dire. Perché se, però no, le vuole, perché guarda, a casa? Si vedono le trappole dei no, media. Ma perché? Ma perché le vuole a casa? A fare la calzetta, già vedo i titoli. No. Io ritengo che chi viene eletto la persona. Dopodiché, se fosse lady, se fosse gentleman, se ne siano tranquillamente a fare. A casa, gli eletti sono le persone. Rendono di luce propria. Va bene, la ringrazio, mi devo fermare qui. Grazie Rosario Crocetta, presidente della Sicilia, così come Emanuele Lauria di Repubblica. Ci ritroviamo domattina alle 6.30.